Allo, ma chi è? E chi può essere? Buonasera. Buonasera. Ce l'ho passeggio. Ma fate? Che passeggio ce l'ho? Che è buono la sera. Mi pare che si aggaggia in TV. Ma non credo. C'è la rietta abbastanza, ma ti sta bene, dai. Cosa c'hai acceso, Gio Marino? Perché sento più quello là che a te. Ma uscendo solo. Adesso sì, ma poco fa ci avevi altra cosa dietro che ti portavi. Aspetta che non sento bene, un attimino, prova a parlare. Guarda, 1, 2, 3, prova. No, ogni tanto succede qualcosa qua. Lo sento. Stai uscendo tutta a trombetta. Aspettare, io sono perfetto. Quando... l'ultimo quando, dove, come. Senti, sto uscendo, boh. Sento anche il televisore, sento. Aspetta. Come sto uscendo, sto? Adesso c'è il basso. Oh, vai bene. È buona la radio. Sto... aspetta, perché lo sento bene. Sembra che sia in FM. Ah, in AM sento. Eia, in AM sono. Prova. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. Allora, salvo il numero che sta apparendo. A uscire stai uscendo benissimo. Eppure, a uscire. Oh. Ti sento come si ne permetto. Ah, guarda, allora c'hai... o c'hai qualche cosa che è girato. E mi senti... distorto. Non si comprende l'accidente, no? Deve avere qualche manopola girata. E senti la voce distorta. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova, hola, hola. Sì, adesso si sta con bene. E poi ha toccato qualche manopola. No, la sfida che le cuffie. La sfida che le cuffie. Adesso che c'è qualche filo staccato. Adesso ho provato la sfida, vedete un po'. Un attimo, prova a parlare sto. Guarda, 1, 2, 3, prova, hola, hola. Lo sfida che le cuffie. Sto stendo per le cuffie, era sto, cazzo, ti senti poco, come arrivavo, come se tu fossi da fede, cazzo. Ogni tanto viene una. Andiamo bene, andiamo. E fai farsi strano, ha provato altri due apparecchi, e stavo ascoltando su 10 e li sentivo così, fuori il sentivo. Mentre invece ho messo questa adesso ed era dal fatto delle cuffie, dallo spinotto delle cuffie. Vuol dire che ha messo male con lo spinotto. L'ho cambiato lo spinotto, dico. Siccome lo spinotto delle cuffie, sono serio. E ho messo uno mono, piccolino, e evidentemente non funziona bene con lui, adesso sta funzionando perfettamente. Infatti così, non sono tutti buoni gli spinotti. Sono andato la volta da Fusaro, cazzo, e non riuscire a dirvi che non ci sia, che ci sono più piccoli per le cuffie. Io ho il grande, ma me ne sei uno sono più piccolo, mono, con l'attacco mono stesso, e dici che non esisti, ma insomma, se c'è il mio, come mai non esistono? E dici che non ne comprendi a nulla, Io pensando a quello, non lo capiva proprio niente, l'accidente, ragazzi, non avevo uno vecchio, se lo ti avrei fatto vedere. Cazzo, me ne sono andato, Sono andato alla GBC e me l'ha dato quello della GBC. Certo, se non ha compreso nulla, non ha compreso. Cazzo, se vai da me, verrà. Ce l'ho io, l'ho preso lì, l'ho preso. Ma roba, vabbè. Ma chi c'era? C'era un tipo grosso, alto. Un marito di chi dai? Della signora. Ma l'ho compreso l'accidente chi sta allora. E poi io stavo guardando per la vetrina sul banco e non ce n'era, non ce n'era, non li avevo fatti vedere, c'erano solo quei grandi. Nel cassetto ce li ha, cioè ci sono ma sono nel cassetto. Dove hai studiato, dove hai imparato a conoscere i pezzi, capito? Forse è per quello. Penso deve imparare ancora come inviare a roba. Già era Giovanna, quella già era la terza, e anche quell'altro macchio, coso, come si chiamava, che adesso non si può, o in pensione quello è. Sicuramente è andato in pensione, sicuramente. Colombino si chiamava. Infatti conoscevo il padre benissimo, abitavo qua vicino a me, però lui è sposato e non so dove abita, il padre abita vicino a me, in via Monti. Quello era bravo. Che non ne comprende nulla, che non sa andare a roba, ecco cos'è. Va, purtroppo. Qui si vede che è il parente, dai, andiamo dove andiamo. Questa roba da fatti, insomma, a non conoscere, cazzo metto una persona che lo sa, non è competenza sua, non l'hanno imparato bene. Cosa vuoi fare? Certo. Ma se non vede nessun altro, è vero. Infatti. Cazzo, i Fusano già sapevano cosa era, ma tutto questo ancora devi imparare, dai. Infatti devi imparare la cosa, quando gliela chiedono. Cazzo, quello è GBC, non sa se girare, ma tutta la cosa che fa, ma chi se fa tanta di questa roba? Che non sa manco un di e un di non letto. Io so come fa, la faccio quello lì. Io penso che la roba che ha ordinato, che arriva, ordina sempre, però bisogna avere mette la baga da buio. Non è, gente, neanche per fa qualcuno, ma no, non è come prima, non è come prima, sono andato a cercare un capo di alimentatore per il baracchino, quello con l'attacco piatto a tre, non riuscivo a trovarlo. Cazzo, invece ha dato un altro, mi dice lì che sono lì, e gli ha fatto vedere quell'altro, dice che ne aveva preso altri ancora l'altro giorno, no? E gliel'ha fatto vedere lui, e guarda che l'ha preso da quel cassetto l'altro giorno. Cazzo, pensa un poco, non mi portare un gabbo. Sì, sono bella parte. Vabbè, comunque gli sto uscendo bene adesso, no? A voglia. Caspita, sta uscendo bene. Aspettate, lui ragazzi, ma sono pazzie. Anche se perché tu ti fa parecchio che ci sarà bruciato di tirare la ricezione. E invece poi stavo, ed era dallo schiotto delle cuffie. Non deve funzionare benissimo, già sta funzionando bene. Sta a contatto, capisco, ti sentivo in FM, capisco. Invece ho cambiato e questo è il nuovo, così che è per quello, capisco, mi faccio quello che lo butta adesso. Quello che non funziona. Conveni, se non funziona, se lo rampi fai prima. Se non mi confondo sempre, capito? Sto sempre là avanti. Certo, ma che tu cucina bene, cucchia qua, cucchia là, perché tu sempre la tengo accesa qua. Certo. Allora, ogni tanto cambia apparecchio, allora devo mettermi per forza le cuffie. Fai bene. Fai bene così. Così, ecco. Ho già fatto caldo, metto. Tanto oggi in Italia abbiamo superato i 40 gradi. Poi eravamo a 31 gradi, dirami. Ma lo segnava nella macchina, 31 gradi. No, non so, mi sembra che era a Roma 40 gradi più. A Roma sì, ha toccato i 40 gradi. Però qua eravamo a 31 perché c'era quel venticello. Che è coso, è caldo, c'era caldo. Però c'era quel venticello fresco. Perché l'ho vista la televisione, lì abbiamo l'Italia ci abbiamo superato i 40 gradi, ed era a Roma. Infatti 40 gradi era a Roma, al massimo qua eravamo a 33 gradi. Oh, qua 33, e caldo c'era su, c'era un bel caldo, c'era l'arietta, ma era calda l'aria. No, le cose giù a... alla parte di giù, lì sì, 38 gradi, 38, 40, faceva. E dove? Parte di Aristano, vicino a quelle zone lì. È tutto pianura lì, senz'altro. Lì c'è sempre più caldo la pasta, il capitano specialmente, so. Cazzo, Non stavi uscendo, Gio Marie? Come? Che non stavi uscendo? Allora devo abbassarti i picchetti bene. Sicuramente. Perché la portante c'era, ma non stavi uscendo. Esatto, che era così. Non è quello che sta funzionando qua. Ma è poco fa, mi... c'era la portante, però tu... Voce nuda. La PCC, ecco. Guarda, certe volte lo abbasso bene il PCC. C'è il piccino del bicchiere sul suo microfono. Anche il PCC è piccolino. E certe volte... va abbassato, è tutto abbassato. Certo. Che bello. Oh, Giulia. Certo, ho iniziato il chiarotto, cosa vuoi fare? A me il microfono è minore di minore, non mi piace. Adesso sta mettendo sì. Anche quello del 7009, anche quello è piccolino, E sembra un uovo, guarda. Oh, ma a me che se me lo vedi non mi piace. Ma che cosa? Anche quello quello che si fa al tuo, è piccolino il microfono, non è molto bravo. Ah, quello delle cose, anche quello è piccolino. E questo è più piccolo ancora, perché rimane un po' ovale, mentre quello là, quello più piccolo al tuo rimane più lungo e stretto. Più lungo e stretto, infatti è così. Ma no. Ma è appunto lo stesso, o grande o piccolo, largo o stretto. Cazzo, hanno funzionato bene, poco fa mi sono spaventato, ma già partito attorno a questa apparecchio. Mi piacerà dare fino a sulle cuffie, roba da fare. Perché è stereo lo stilotto delle cuffie, no? Però ne ho messo un altro mono, ne ho messo piccolino, è dispettoso, evidentemente lo combattiamo di contatti, capito? Sì, no, già è così, sì. Ma se che non spingevi bene, non schiacciavi bene, allora usciva solo di portante, ma boh, di nulla. Che si è alzata, ma no, quella frequenza era giusta, parlando i sacchetti si muovevano avanti e indietro, questo è strano, per forza, ed era dalle cuffie, roba da fare, ogni tanto me ne capita una. Andiamo bene, andiamo. Tre apparecchi ho cambiato, del tipo in FM, anche su G. Io ho provato tutta tre sentivo fuori. Come sentivo a te? ed era quello spinotto. Che c'è spinotto, mi pare te lo devi rampare, che non si. No, ce lo butto. Io lo butto per la compra nuovo. Da quando ci vado, vado con quello vecchio, con questo che non funziona, e me lo faccio dare un altro nuovo. Tanto devo prendere il piede se ce li ha come voglio io. Conviene di me. Conviene così, infatti. E allora sai, io ho provato, ho girato al computer, non ho trovato il macchinispettore. Non ho trovato nulla, tutto bianco solo. Neanche io ne ho trovato. Oh, se non è bigliato tutta un'ora, boh, e non ne so funendo. Vabbè, sai, abbiamo solo, ma non è la vista, no? Non produce questa, di questa roba. E dovrebbe produrre questa. Infatti in Italia stanno portando tutti i baracchini, io. Siamo qua a Sassari, ma dappertutto stanno portando bene, per cui dovrebbe esserci lo smirto. Io stavo cercando, trovavo sempre quelli bianchi, gli esci bianchi, ne ha già un bel. Oh, di quelli rossi o gialli non li ho trovato per niente. E perché ci sono un po' giallini là, giallo chiaro, quelli ci sono in vendita. Ah, di quelli non ne ho trovato manco uno, manco di quelli rossi non ne ho trovato neanche uno. Non so dire che ha già sbagliato. Strano è che non ci sono i figli, ma proprio quello che va che andavano bene, gatta. Infatti quelli li usavano tutti, li cercavano, di più di tutti, quelli bianchi li cercavano poco, che infatti ha fallito la vita. Non penso che abbia fallito, ma ci sono in circolazione, ma no? Gli allacciato, prima o poi gli allacciato. Sul mese oppure sulla massa, ci dovrebbero essere, infatti strano che non ci sia. Infatti, prima o poi gli allacciato, se cade che gli assacciappano. Se capisce, già lo sai, 10 che mi servono a me, e ne prenderei altri 10 tu, che... Se lo dici e ti vuoi tutto. Ehi, non ti preoccupare. Se devi acciappare devo dire direttamente. Beh, servono, Servo, io mi dovrei fare il setto di nuovo, perché quelli che ho non mi piacciono. Sì. E devo fare il setto col capo di RC58. Se è possibile, quelli che... Senza il riduttore TL però. Senza il riduttore, quelli lì sono migliori perché la casa con la bicchia non si muove più, mentre invece il riduttore può muovere. Quelli con le cose, quelli con l'attacco piccolo, con l'attacco R58. Vabbè. L'attacco di cose, di R58. No. No, ma quello che sto dicendo, ci metto il 58, il cavo 58, devo fare, sono 8 spettatori devo fare. Io ti sto dicendo che sono quelli, i cosi sono quelli con l'attacco R58. Oh, ah, ci sono quelli. Ma io ne ho 2 o 3 di quelli lì. Cazzo, c'è quelle che sono senza riduttore, che sta vista direttamente sulla filettatura la cassa. Sì, quelli lì sono. Io se me ne è rimasto uno, giuro, me ne è rimasto. Quelli sono gli unici, sono quelli, perché la massa la blocca veramente sulla filettatura. E quelli vorrei io. Solamente avevo preso 2 da Fusaro. Poi altri 2 l'avevo fatto un bel combatti e mi sono rimasto senza io, guarda. Però se ne trovo quello mi prendo, perché sono comodi, mi faccio tutto rispetto ai luoghi, capito? Per essere più tranquillo. Infatti del coso attaccato a 899, quello lì c'ho quello con R58, quello con doppia calza. Esatto. Quelle lì sono comodi, sono perfetti con me. Vado benissimo con lui. E per cui conviene a prendere quelli. Perché quegli altri piedi che stanno nel riduttore, o quelli con certe volte un rito, altri si mollano, capito? E la massa non se la fa bene. Due ne ho infatti con quel piede lì, con i riduttori, ne ho due ne ho. Io non ne ho. Vecchi li ho, però non le metto giusti, capito? Avrò 5C, ma sono vecchi e bianchi, non mi piacciono più. No. Non escono bene quando faccio i sensori, capito? Quelli che ho fatto con il riduttore sono fatti bene, non si muovono. Perché ho la calza dentro e come stringo si sono bloccati. La blocca, infatti, si blocca. Poi quando mette la guaina stringente lì, prima le metti appena lì, una passaggia sull'altro, dopo le metti la guaina stringente, che appena si muovono male, non si muove più quello lì. Poi sono vedi che bloccati, insomma. Infatti. Ma lì ho gli ispettori, ma sono tutti quelli con riduttore, non mi piace, no? Certo. Qualcuno ce l'ho attaccati già, però ogni tanto li controllo per il sicuro, capito? Sì, no, io un cavo di quello nero, R58, con doppia guaina. Gli altri sono tutti grigi, quindi l'appennaggio è uno ribaro. Ce l'ha lavorato un po' un pezzo di capo per fare il sensore, ti ricordi? Era tutto usato, non mi è rimasto nulla, tutto occupato. Perché con le spettoni sei a posto allora? Con le spettoni già sono a posto, sì. Poi se me ne serve un altro, devo staccare da un altro rubro, devo staccare. Perché vai, quello di stacca, io ti fermo con lì. Non mi stacca, sono piatto. Ma già mi arrangio così, a voglia. Certo. Mi arrangio così e già funziona bene. Comunque ogni tanto cerca al centro di quel piede che riprendiamo, capito? Almeno me ne faccio tutto nuovo me ne faccio, capito? E per cui perché è meglio farli nuovi, capito? Sì, infatti se li trovo altre due ispezioni me li faccio. Ho fatto male la volta, gatta, che c'erano quelle batteriste, gatta, hanno preso due solo, gatta, ce ne avevano parecchi. Però se li troviamo, li prendiamo e se li facciamo. Quelli gialli devo riuscire a trovare. Quelli gialli sono quelli buoni, sono. Usi coltani di più. Anche se costa di più, però sono buoni, per cui conviene a prendere. Quindi quegli altri non li trovi, prendi quei gialli. Infatti, quelli gialli se li trovo li ordino direttamente. Fai così, tu li ordini direttamente, almeno ce lo diamo di scorta. Sì, no, infatti è così. L'unica cosa è così. Ci voglio, ci voglio. E poco da fare. Era la peppa. Andiamo bene. Andiamo bene. Speriamo che venga presto lunedì. Come? Che venga presto lunedì a farmi questa cosa. Che sto diventando boh. facevo sempre più soldo. E cosa devi fare? Andare su a sappallare a Recci. Ah, e beh, speriamo bene, ragazzi. Vabbè, speriamo bene, se riesci a stamparmi, almeno che si bene, so. Speriamo bene. Ma mi hai mandato pure un messaggio oggi, ma mi hai mandato, non mette i cammini di salire alle 9:05 dopo essere lì. E sai come va, è meglio è. A che ora sei? Ci sarà l'orario, magari dopo che arriva il maestro. No, che io ho l'appuntamento alle 9:05, non il primo che arriva. L'appuntamento alle 9:05, allora entrare io. No, perché la maggior parte dice se poi ci danno l'appuntamento a talora, tu vai magari, che è arrivato prima, e entra prima quelli che sono arrivati prima, so. In molti posti è. No, ma non è di non mancare perché sono il primo che entro. Ma c'è scritto, sono il primo che entro alle 9:05. Se l'ha detto, va bene così allora. A me dopo. Attenti perfettamente. Vedete se la fammina giù. Auguriamocela. Speriamo sia così. Non ne posso più. Io ve lo dico, sto qualcosa, certo. Che io ce l'ho tappata tutte e due, già sento già, però via. Certe volte quando mi dice qualcosa mia moglie me lo faccio ripetere una o due volte, capito? Io che sono io, ma la devo far ripetere la cosa, quando non sento bene. Allora sto da solo, Ah, perché a un orecchio sento, all'altro orecchio sento sì, però la sento dentro la voce. Beh, io la sento poco a tutte due parti, certo. Evidentemente ho forzato troppo la destra dalla sinistra, capito? Ho forzato troppo quella e allora mi sta mancando anche la destra, capito? Dice che ho usato gli apparecchi, però se mi sto vicino già riesco a capire bene. Oh, io alla destra ci sento benissimo, alla sinistra che c'è il tappo proprio, si sente che c'è il tappo. Che cazzo che... Oh, cosa ci sta il macchinario buono quello lì? E lì a Palazzo Bianco, guarda, lì già ce l'hanno l'attrezzatura. Stanno i muri, sono grandi pure, vedi tutto come è dentro l'orecchio, capito? Ah, ma ce l'hanno anche su Acconti, l'attrezzatura buona. No, non so, insomma, pare che non sto male per l'orecchio, ecco. Certo. Perché io so che l'ultima volta sono andato lì a Palazzo Bianco, a Raffaella, e macchinario bella. Cazzo, c'hanno una secca che c'è la telecamera sulla punta, cazzo. E da quella telecamera c'è pure anche frutta anche il liquido. Sì, infatti è così che deve essere. Ah, mi ha detto che sono ben attrezzati, mi hanno detto. Gente che è andata e sono ben attrezzati. E in Chibi di Bologna a 45 gradi, se non cappa né uno, cappa né l'altro. Hai detto? Poi da Zavorra, mentre la Zavorra è da Natalino. Che se non è a Recce, Natalino, che se lo fondo del buco a Doggio. E cappano i buruchissimi, non ti preoccupare. Cosa devo dire? Ciao Gian Maria, a me invece mi stanno entrando un affare nella ora oggi. Oia, ma ne fatto la gastroscopia, ma ne fatto. È da roba, è da roba di sacchi. Ma io le ho fatto quattro volte, due volte l'ho fatto addormentato con l'anestesia e due volte senza l'anestesia, cazzo, ma mi riesci di tutti a poco dire, e non le farò più senza l'anestesia, perché so che a poco me lo posso immaginare, Gianmarino, no, a me me l'hanno fatto con l'anestesia. ma ne butto una siringa di a che cosa e non mi sono capitato di niente, fortunatamente. Così va bene, cazzo. È brutto senza essere. È brutto. Cazzo, mamma mia, per carità. E io ho fatto anche l'endoscopia, ho fatto un paio di volte la televisione. Insomma, ma lui vuole pensare l'altro. Io me lo posso immaginare, Gian Maria. Ma siamo i sani. E beh, la gamba. E la gamba. Male mi sento sempre, sono sempre a dolori, gatta. Oggi sono arrivato anche io che era un ganso. Allora vuol dire un ganso. A dolori, voci, due. Cisso che. Poi un orario del cavolo, proprio alle 11:30. Gesù Cristo mio. Non ho dovuto pigliare i bacilli di paro diabete, se no mi aveva fatto entrare in coma, che non ho dovuto mangiare niente, sono dovuto andare a digiuno, sono dovuto andare. Mi siete soprammodulati tutti e due, già mai niente mio di più. Che frutta, se vedi a te, capito, sono dovuto andare a digiuno e quindi le pastiglie del diabete non le ho prese, no? Se no, cazzo, mi aveva fatto baciare la glicemia, sono stati bevi. È fruisso, anche quello che non ha preso le pastiglie del diabete a digiuno, è un capogiro buco. Gesù, sono arrivato a un gancio, dottore, ti giuro, come un tradito, gatta, che 15 dolori, no? Perché non mi ha fatto effetto l'antidolorifico? Se non ti fa effetto, cazzo, di cui mi neggia. E poi sto dicendo, se ne fai dietro a un certo punto non fa più effetto, capito? Gesù, guarda, non pare vero a raccontarlo, ma era una barzelletta. Perché a digiuno non ti ha fatto effetto, ecco perché. Quello dovevi prendere quando stavi mangiando. Io, purtroppo dovevo essere a digiuno dalla mezzanotte prima, hai capito? Dovevi andare a digiuno e non c'è nulla da fare. Sì, no, già è così. C'è rimasto a digiuno e tu ti hai preso l'antidolorifico, non ti ha fatto nulla. Poi sono arrivato lì a un gancio e me ne sono andato a un gancio stesso. Perché dopo sono tornati a venire i dolori e ci sono dentro più di mezz'ora in chivi, cucato il rulettino. Vinti l'anestesia di Vassi. Infatti è così. Per il 20 dell'anestesia. Sì, ma messo male ero io oggi. Oggi ero messo male veramente. A parte che questi orari, 11:30, ma quando mai, uno è diabetico, ma boh. E l'ho detto io, se no loro non sapevano niente. Guarda, io sono diabetico anche, non ho preso la pastiglia del diabete proprio perché sennò magari entravo in coma. E ha fatto bene, e io, yeah. Però le durorie la vivo io. Vabbè, sono qua più che devo fare gli analisi, no? Io devo andare le facce, devo essere di giuro. Però, cazzo, è il secondo orario che entra, cazzo, che a capo giri, malandato, mamma mia, è poco brutto, E a me lo dici, quando devi andare in digiuno è brutto, sì. L'unica è non pigliare la bacilla, perché se non si va a baciare ancora di più la glicemia, compreso. E da voi, quando mangi la miglia, comincia a giocare io. Quando sono arrivato dai nodi, prima mi sono rilassato un po' in antarolito. A chi manca a mangiare per la partita, di gioco di senti, ero distrutto stamattina. Ma se devi fare il proiettivo, quando sono a fare l'aria, da parte. E la pastiglia, la prendo quattro pastiglie, non prendo niente, però quello è il fatto che senza mangiare, io ho preso anche le pastiglie, da Lucchese vado a Cappuccia e secondo me anche la dentro, pure a Trento. Gesù, non sembra vero le cose che stiamo raccontando, non pare vero, guarda, però è così. Tanto riduttori, non l'ha niente i riduttori, no, che l'avevo lui, di non ne ha fatto nulla, tu sei soffrendi, compreso. Così, già. Vabbè, dai. io devo chiudere la tariffa, sentiamo, dai. Allora auguri anche a te, dai, sentiamo, buon proseguimento. Torri, prendi il buio, chiudo, ciao, saluto di casa, ciao. Sì, anche io sto chiudendo, Giomari, ci risentiamo alle prossime. Natali, ci risentiamo alle prossime, che anche io mi devo prendere la pastiglia. Ok, ciao Natali, stammi bene, ciao Giomaria, a risentirci alle prossime. Va bene, buonasera a tutti e due. Allora, grazie per le quattro chiacchiere sfuggenti che ho girato poco fa perché ero nell'altro canale e sono entrato, ho sentito a voi, sono voluto entrare a salutarvi, dai. Ci sentiamo alle prossime, dai. Oh, yeah. Buon tutto, allora, buon proseguimento. Ok, ciao Natali, ciao Gianmaria.